Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti da Stefano Dainese e benvenuti all'appuntamento di questa sera con Rock Wave. È un appuntamento assolutamente straordinario. Abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Valerio Billeri, che è venuto da Roma, dalla capitale giustamente, per presentarci questa sua creazione, che è un insieme di brani scritti, di molte canzoni selezionate nella storia musicale d'Italia, e alcune scritte da lui naturalmente, altre scritte da... Poche scritte da me, molti tradizionali o anche scritti da qualcuno dei nostri cantatori più amati, e il tutto per celebrare il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, che come sappiamo cadrà fra due giorni, fra pochi giorni, tre, due. E allora abbiamo il tempo abbastanza contato per questa cosa, perché è un'opera molto interessante ma ricca. Ecco, ci sono molte canzoni. Speriamo bene che va tutto. Ma noi siamo molto, molto fiduciosi, abbiamo la massima fiducia nei tuoi confronti. Allora direi di cominciare subito. Hai voluto cominciare con uno scritto di Pierpaolo Pasolini, che torna poi anche più avanti. Sì. E per fortuna non l'hai fatto leggere a me questo, perché è un po' impegnativo. Vittorio Gasman, no? È qualcuno un po' più bravo di me, l'indimenticabile Vittorio Gasman, per aprire questo appuntamento, questa celebrazione dell'Unità d'Italia in compagnia di Valerio Billeri. Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico, ma nazione vivente, ma nazione europea. E cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti, governanti impiegati di agrari, prefetti codini, avvocatucci unti di brillantina ai piedi sporchi, funzionari liberali, carogne come gli zii bigotti, una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino. Milioni di piccoli borghesi, come milioni di porci, pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti, tra case coloniali scrostate ormai come chiese. Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti. Proprio perché fosti cosciente, sei incosciente. E solo perché sei cattolica, non puoi pensare che il tuo male è tutto il male, colpa di ogni male. Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo. Quando la luna arriva a Genova e la mia lettera da te, lì sarà quasi estate, mentre qui l'inverno arriverà, e con l'inverno un altro anno se ne andrà. A Torino si dice che sei un bandito e che stai andando alla deriva, su un battello a difendere il confine uruguaiano, con un esercito che parla in italiano. Camicie rosse all'avventura, in una nuvola di bandiere, camicie rosse così nessuna delle ferite si può vedere. E a volte il coraggio è di ritornare senza aver fatto fortuna dall'altra parte del mare, per inseguire una stella che gira e gira ti riporterà a menare le mani per la libertà. C'è chi ti ha visto a Milano tra fiori e parate, o sulle mura di Roma con le divise stracciate. C'è chi ti ha visto a cavallo con gli occhi azzurri per salutare, però li avevi marrone se dovevi scappare. Camicie rosse all'avventura in una nuvola di bandiere, camicie rosse così nessuna delle ferite si può vedere. Braccato in palude da sbirri e zanzare, o in un bordello per dimenticare, o a faticare a New York in una fabbrica di candele, a riparare il tuo cuore, a ricucirne le vele. Signora fortuna che brilli di notte, che ci prendi per mano e ci mostri le rotte, proteggi questa flotta di studenti e sognatori, aggiungi al firmamento i nostri mille cuori. Aggiungi al firmamento i nostri mille cuori. Questa era Camicie rosse di Massimo Bubola. Dal diario di Cesare Abba, garibaldino, prima della battaglia di Volturno, era il 4 ottobre 1860. Era quasi notte, discesi da Monte Caro, passammo per quella bicocca di valle, 10 casacce che parevano vecchie e cenciose. Ma ieri l'altro, mentre i borbonici venivano alla battaglia, le donne di quelle case urlavano dalle finestre come furie. Viva lo re e morte, si sa, a noi. Dice che si udivano sin da mezzo il monte e che le loro grida facevano più senso che l'avanzarsi dei battaglioni. Via per la strada grande andammo, ma insomma dov'è questo ponte? Sempre un po' fanciulli si crede che tutto sia lì a due passi, ma Benevento era molto lontano. Non incontrammo anima viva, solo a tratti, nei campi lungo la via, si vedevano dei morti, forse soldati feriti ieri l'altro, poi spirati tra via e gettati dai carri. Il ponte non si trovava, pure andando ancora, più qua, più là, si dovrebbe udir l'acqua. Vorrei vederla passare al lume delle stelle, sentire il ponte sotto i nostri piedi, lasciar cadere una pietra dalla spalletta di esso e immaginarmi di essere un soldato angioino e che là sotto giacesse Manfredi. Per me l'antico, quel che non è più, è tutto. Quel che vive è nulla. Io stesso mi sento nulla. E se Garibaldi non fosse un'antichità, non l'avrei seguito. La mattina, sul fare dell'alba, la compagnia dormiva, compresa la guardia. Il terreno coperto dalle foglie cadute, nel freddo del bosco nessuna voce. Cavalli fermi, ombre nella nebbia, le mie ossa bagnate sembravano argilla, la barba sporca per una ferita, a alzai la voce, chiamai la adunata. Oggi noi passeremo il ponte, oggi il nemico ci sarà di fronte, combatteremo in modo esemplare, morirò davvero ufficiale. Ho scritto una lettera proprio ieri, parlava di cose che non comprendevo, il freddo in battaglia quando è alto il fuoco, il ronzare notturno che disturba il mio sonno. Ma oggi noi passeremo il ponte, oggi il nemico ci sarà di fronte, combatteremo in modo esemplare, morirò davvero ufficiale. Strani presagi accompagnano il passo, fiere che galleggiano nel fetore del fosso, fulmini che segnano il cielo di impronte, boati lontani, lontani dal fronte. Questo era un brano di Valerio Billeri, si intitola Anime Perse, e adesso diamo la voce, ascoltiamo la voce di un altro grandissimo attore indimenticabile, Nino Manfredi. Dice, come ti chiami? Angelo Brunetti, eccellenza, detto Ciceruacchio. Gonfaloniere di Campo Marzio, di professione carrettiere, si sente da come parlo. Dice, allora perché ti sei impicciato le cose che non ti riguardano? Dico, perché io sono carrettiere, ma a tempo perso sono uomo. E l'uomo si impiccia, eccellenza. Difatti via Garibaldi e dice favoli d'Italia. Io che fo? Non mi impiccio. Io sono romano, eccellenza, ma a tempo perso sono italiano. È colpa? Dice sì. Ah, boh, è colpa essere italiano? No, dice lui. È colpa perché tu hai difeso l'anarchia e la rivoluzione. Ma non, signora eccellenza! Io ho difeso Roma, il paese mio. E lei ce lo sa meglio da me. Ma come i francesi mi viene a cannonata, io non mi impiccio. Non mi riguarda. Insomma, eccellenza, se andiamo a strigne, che abbiamo fatto di male? Sta creatura manca a dirlo, ma io che ho fatto? Ho voluto bene a Roma, e beh? E da quando in qua l'amor di patria è diventato un delitto? Però se nella legge vostra è un delitto, vuole bene al paese proprio, allora io sono colpevole. Anzi, sono reo confesso, e mi offenderebbe pure se mi rimandaste assorto. Per cui, eccellenza, spero che lei si sia persuasa. E così voi che mi sembrate... Oh, ma mi state a sentire? No, dicevo, spero che pure voi vi siete appersuati. No, ma che fate? No, ragazzi, no! Morirò, morirò, sarai contento, così non sentirai più sta afflitta voce. Morirò, morirò mentre un lamento lo farà la campana a bassa voce. E quando poi mi vedrai passare, fatti alla porta perché quello so io. Ti prego allora vieni a accompagnare fino alla chiesa per amor di Dio. Morirò, morirò, sarai contenta, così non sentirai sta afflitta voce. Morirò, morirò, mentre un lamento la farà la campana a bassa voce. E quando poi li sentirai passare, fatte alla porta perché quella so io. Ti prego vieni allora accompagnare fino alla tomba per amor di Dio. Si chiederà cosa c'entra un blues nella storia della ricorrenza dell'Unità d'Italia, ma questo brano forse Valerio è meglio che spieghi tu un attimo. Questo è un tradizionale romano del XVI secolo. Ecco questo. Scritto in onore di Beatrice Cenci, che fu uccisa. Sto cambiando chitarra. Sì, sì. Fu uccisa barbaramente per una storia, un fattaccio si dice a Roma. Per una storia di violenza, lei uccise chi la violentò e fu mandata a morte. E da quel giorno a Roma è diventato l'inno dei condannati a morte. Nello Stato Pontificio vigeva questa vabbè, che non vise più per fortuna. Adesso vi leggo un brano dal diario del sottotenente Pietro Abignetti, scritto durante la Prima Guerra Mondiale. Da 8 giorni la neve non cessa il suo lento e silenzioso cadere. Siamo quasi sepolti da un ammasso bianco, il quale va aumentando implacabile. Il nostro piccolo ricovero di tronchi e cortecce d'albero non ha altro ingresso che un augusto cunicolo scavato a guisa di galleria eschimese, e solo il tubo della stufa ne emerge. Il terribile bombardamento aveva mutato la fisionomia del terreno e le trincee sembravano informi fossati, pieni di rottami e cadaveri. Questa è Signore delle Cime. Dio del cielo, Signore delle Cime, un nostro amico hai chiesto alla montagna, ma ti preghiamo su nel paradiso, lascialo andare per le tue montagne. Santa Maria, Signora della neve, copri col bianco e soffice mantello il nostro amico, il nostro fratello, su nel paradiso, lascialo andare nelle montagne. Dio del cielo, signore delle cime, un nostro amico hai chiesto alla montagna, ma ti preghiamo, su nel paradiso, lascialo andare per le tue montagne, ma ti preghiamo, su nel paradiso, lascialo andare per le tue montagne. Sempre dal dialogo del sottotenente Pietro Abignete. Com'era dolce, dopo il turno di linea, dopo quei 10 e 15 giorni di trincea, discendere giù dall'altopiano, in cui il cannone non taceva mai, giungere a Bassano sull'autocarro polveroso e trovare aperte come un nido le braccia di una dolce amante, sul cui semplice cuore si riposava il mio, stanco di lotte e stragi. In quante oscure notti di insonne veglia mi fosti vicina, piccola cara, e sorreggermi dallo scoramento sulle tetre cime della caldiera o negli insanguinati recessi di Col di Chiele. Questa era una notte che pioveva. Era una notte che pioveva e che tirava un forte vento. Immaginatevi che gran tormento per un alpino stare a vegliar. Immaginatevi che gran tormento per un alpino stare a vegliare. A mezzanotte arriva il cambio, accompagnato dal capo posto. O sentinella, ritorna al tuo posto, sotto la tenda a riposar. O sentinella, ritorna al tuo posto, sotto la tenda a riposar. Quando fui stato nella mia tenda, sentì un rumore giù per la valle, sentivo l'acqua giù per le spalle, sentivo i sassi a rotolar, sentivo l'acqua giù per le spalle, sentivo i sassi a rotolar. Mentre dormivo nella mia tenda, sognavo d'esser con la mia bella, e invece ero di sentinella a fare la guardia allo straniero. E invece ero di sentinella a fare la guardia allo straniero. Un'altra delle canzoni che parlano del fronte della guerra, della prima guerra mondiale, qui nelle nostre zone, appunto viene citato Bassano nel diario del sottotenente. Vi ricordo che siete sintonizzati su Blue Radio Veneto, questo è un appuntamento molto particolare di Rock Wave con Valerio Billeri. Con il nostro aiuto naturalmente, celebrando il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, riprendendo appunto scritti e canzoni che hanno un significato particolare in questa ricorrenza. Dalle nostre zone, dal nord-est della prima guerra mondiale, adesso ci spostiamo nel sud all'epoca dei briganti, con uno scritto dal diario di due gentiluomini inglesi che furono rapiti nell'agosto del 1865. Quando ci fu permesso un breve riposo, il capitano della banda, il cui nome scoprì era Gaetano Manzo, dette ad ognuno di noi per farci sedere un largo mantello chiamato capote e generalmente indossato dai contadini. Cogliemmo questa occasione per interrogare il capitano su quello che volevano da noi. Sfregò il pollice e l'indice della mano destra e disse: «Denaro, non temete». Gli chiesi quanto dovessimo camminare ancora. La risposta fu: «Lontano, lontano assai». Continuammo il cammino attraversando terreni paludosi e profondi fossi che noi saltavamo facilmente, con grande divertimento dei briganti che non sapevano saltare. Ridevano di cuore alla nostra agilità e ridevano ancora di più quando uno di loro cadeva nel fosso. Eravamo nei pressi del mare quando superammo una casa e l'uomo mandato a vedere ritornò con una grande quantità di pane scuro, asciutto e duro, dalla forma rotonda. Ci offrirono un pezzetto di salsiccia dura chiamata supersata, ma dopo aver discusso insieme sulle sue qualità diciamo che non ci piaceva. Risero e il capitano disse: «Fra poco vi piacerà», il che veramente accadde. Briganti fecero enormi danni alle terre del sud, prima alimentando un sistema feudatario con lo sfruttamento delle classi più povere e poi armando e incentivando le prime forme di malavita organizzata, come si evince da questa splendida e terribile ballata tradizionale intitolata «Brigante se more», trascritta e reinterpretata dal bravo Eugenio Bennato. Usate chitarre e tamburo, perché sta musica sa da gagna. Simme briganti e facimme paura, e cascupetta volimme cantà. E mo cantammo sta nuova canzone, tutta la gente se da imparà. Non ce ne fotte dure Bourbone, a terra è nostra non sa da tocca. Chi ha visto lupo si è mise paura, non sa per buone qual è la verità, ovvero lupo che magna e creature, e o piemontese che vimme caccià. Amo uomo se nasce brigante se muore, ma fino all'ultima vimma sparà, e se morimmo me nate un fiore, è una bestemmia per sta libertà. Cosa intende per nazione, signor Ministro, una massa di infelici? Piantiamo grano, ma non mangiamo pane bianco, coltiviamo la vite, ma non beviamo il vino, alleviamo animali, ma non mangiamo carne. Ciò nonostante voi ci consigliate di non abbandonare la nostra patria. Ma è una patria la terra dove non si riesce a vivere del proprio lavoro? Questa è la risposta di un emigrante italiano al suo ministro nel secolo XIX, l'epoca delle grandi migrazioni, e questa canzone parla di questo, si intitola 30 giorni di nave a vapore, un tradizionale riarrangiato da Valerio. Trenta giorni di nave a vapore, fino in America ci tocca andare. Trenta giorni di nave a vapore, fino in America ci tocca andare. Dormendo su un nudo terreno, come le bestie a riposare. E l'America è lunga e larga, è circondata da monti e da piani. E l'America è lunga e larga, è circondata da monti e da piani. E l'industria dei nostri italiani ha costruito ponti e città. E andremo coi zingari zingari a girare di città in città. E andremo coi carri dei zingari a girare di città in città. Costruendo fabbriche e ponti, e questa terra anche nostra sarà. Trenta giorni di nave a vapore, fino in America ci tocca andare. Trenta giorni di nave a vapore, fino in America ci tocca andare. Abbiamo trovato né paglia né fieno, come le bestie a riposare. Fuori il fragore delle onde faceva da sottofondo a quell'incredibile baraonda, e lì ci balloccammo con uno dei nostri passatempi preferiti, guardare i pesci. Alcuni di noi gridavano: guarda i pesci, dove, dove? E tutti ci precipitavamo verso quel punto. Con la bocca spalancata a penzoloni verso il basso, restavamo ad osservare le giocose acrobazie degli sfavillanti delfini che scortavano il piroscafo. Talvolta ci seguivano per miglia e miglia, e così per molte ore restavamo a guardare le bellissime creature di quel mare che per un po' smetteva di farci paura. Il giorno in cui finalmente giungemmo in prossimità della baia di New York c'era foschia, era troppo tardi per entrare in porto, tuttavia era terra, era l'America. L'angoscia che ci aveva assillati lungo tutta la traversata di quell'immenso oceano si dissolse in fretta, sollevandoci il cuore. Ora gironzolavamo festosi sul ponte. Lentamente sulle nostre voci si stese un velo di silenzio. Un dubbio orrendo si era fatto fra i molti pensieri. Chi di noi poteva sapere con certezza se sarebbe stato ammesso in America o piuttosto rispedito indietro come presenza indesiderata? Sbarcati a Ellis Island furono sottoposti a ispezioni e visite mediche. E comunque, il 20 aprile del 1910, io e mio padre, assieme a un gruppetto di compaesani, ottenemmo il permesso di sbarcare nella terra promessa. È il diario di un emigrante italiano all'inizio del Novecento e la canzone di Valerio Billeri è Nostra Signora. Ai bordi della strada, con lo sguardo fisso ad aspettare che dalle lontane colline una nube venisse a scacciare il caldo del sole, sacrificandomi alla miseria che questa terra porta. A volte vivo nello spirito, altre volte al vino come morto. Perché la terra che ho lavorato si è fatta arida e deserta, e il vento che viene da sud ora porta solo polvere e morte. Don Juan, maestra di vita, mi ha detto che sarebbe meglio fare valigie in fretta e furia prima che il padrone sia di nuovo sveglio. Già ci ha lasciato, oh mia dolce Maddalena, e il fiume dove t'ho preso ora sembra la coda del diavolo che se ne va in cancrena. I sogni se ne vanno, Miguel, come l'acqua al caldo del sole. Cristo ha chiuso le porte del cielo e nessuno più ride. Nostra Signora, mio fratello partirà domani, andrà a sud, la dice che è meglio, cercherà lavoro in fabbrica, sarà anch'io parte del progresso. L'hanno trovato l'altra sera in una stanza d'albergo con una puttana che gli diceva amore d'ubriaco fino al collo. Noi resteremo ancora qua ad aspettare che s'empia il fosso. Poi pregheremo insieme quel Dio che io più non conosco. La terra è la mia anima ed io con lei sto per finire in fondo al buco del culo del mondo che si chiama inferno e ci fa caldo da morire. Nostra Signora, questa è una canzone autografa di Valerio Billeri che è qui con noi questa sera, qui su Blu Radio Veneto, per questo speciale appuntamento che lui ha voluto così gentilmente venire a presentare nei nostri studi. Vi ricordo che siamo dal vivo qui nel nostro studio di Padova, questa è Blu Radio Veneto, Rock Wave, anche se questa sera è una trasmissione talmente particolare che avrebbe meritato forse un titolo a sé stante. Ti lascio un attimo di tempo anche per respirare, Valerio, bere un goccio di vino, giustamente anche la bevanda nazionale. Sì, questa è di Frosinone, questo. L'hanno fatta i laziali, insomma. Delle parti tue. Sì, qua. Vabbè, rispetto a Padova, siamo tutti italiani, esatto. A noi Frosinone sembra molto vicino a Roma. E, il prossimo brano che sarà introdotto da un altro scritto è di Enzo Iannacci, un brano del 1965. Il brano che lo introduce è una parte, non so se un diario, una dichiarazione, insomma una cosa raccontata da Bruno Zebri, che da bambino scampò alla strage di Marzabotto, sì. Uno dei momenti più difficili della nostra storia. Quando rivolgo un pensiero a mio padre Pietro, mancato da pochi mesi, mi ritorna alla mente il suo dolore, un rimorso che lo ha accompagnato fino alla morte. Un pomeriggio a Colella di Sopra, Pietro e suo padre, appena videro arrivare la SS, cercarono di fuggire nel bosco. In quello stesso istante, sua sorella Bruna, di 19 anni, incinta, dalla finestra della camera gli chiese di andare con loro. Pietro le rispose di no, perché era incinta e poi perché i tedeschi cercavano i giovani da mandare in Germania. Arrivarono le SS e dissero a tutti di prepararsi per un lungo viaggio. Ogni persona si mise il vestito migliore che aveva, il vestito della festa, e si radunarono nell'aia di casa. Furono tutti trucidati, giovani, vecchi e bambini. E la Bruna fu uccisa due volte, perché dal ventre le strapparono la sua creatura per infilzarla con le baionette. Questo è il rimorso che mio padre non è riuscito mai a cancellare dalla mente. Quel no alla sorella Bruna, quel no alla sua nipotina. La canzone di Enzo Iannacci è Sfiorisci, bel fiore. Fiore di campo che è nato in miniera per soli pochi giorni, lo stettero a guardar di un pianto suo dolce, sfiorì in una sera e a nulla le mani valsero a salvar. E un di un bel soldato partiva lontano, fu solo per gioco che lui la baciò, piangessi stringendo la fredda sua mano, lui rise con gli altri e il treno vi andò. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amor mio, che a morir d'amore c'è tempo e lo sai. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amor mio, che per morir d'amore c'è tempo e lo sai. C'è laggiù in un prato, una bella dormente, ma neanche un tuo bacio svegliarla potrà. Morì disperata, ma il viso è gaudente, chi passa vicino di lei riderà. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amor mio, che a morir d'amore c'è tempo e lo sai. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amor mio, che per morir d'amore c'è tempo e lo sai. C'è odore di cibo quest'oggi nell'aria, che la pioggia cancella ma tornerà. Qui spezzerò il mio pane, starò ad aspettare la pelle mia nera che mi rinfaccerà. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amor mio, che a morir d'amore c'è tempo e lo sai. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amor mio, che per morir d'amore c'è tempo e lo sai. C'è tempo e lo sai, c'è tempo e lo sai. Bellissima canzone del grande Iannacci, bellissima anche l'interpretazione che ci ha regalato Valerio. Grazie. Non hai paura di confrontarti con i mostri sacri? Ne arriverà un altro fra poco. No, c'ho paura. Tanto non ci stanno. Nascondi bene. E, vedo qua c'è un altro brano tratto dagli scritti di Pierpaolo Pasolini. È la seconda citazione del grande Pasolini. Purtroppo questa volta non abbiamo Gassman a leggerla, dovrete accontentarvi di me. Volevo chiederti così se c'è un motivo particolare per cui... Pasolini, pur essendo dell'Alta Italia, è stato molto presente nel dopoguerra di Roma, della ricostruzione di Roma, sia con i scritti, con i libri, che con le opere cinematografiche, Mamma Roma, Accattone. Ed è molto presente nel nostro territorio. La ricostruzione dell'Italia, il boom che poi ne è venuto e tutti quanti i personaggi che gravitavano intorno a questa rinascita, da lui sono stati raccontati benissimo per me. Ed anche con il senso critico che ne conseguiva verso l'Italia poi. Sì, negli anni... in effetti, rileggendo adesso i suoi scritti, viene da pensare che fosse, non dico Nostradamus, ma un chiaroveggente qualcosa, perché... veramente incredibile quanto siano attuali tuttora, e quello direi che è proprio il segno della grandezza di uno scrittore, ma di un artista in generale. Non importa se uno scrive, fa film, fa canzoni o anche pittura, insomma, cioè se le cose dopo, a distanza ormai di molti decenni, continuano a essere percepite come attuali, come contemporanee, vuol dire che era riuscito a toccare delle corde molto profonde, forse proprio del modo di essere di noi italiani. Storico. Perché siamo sempre così noi, non siamo mai cambiati, sì. Disuniti e uniti. Sì, come un paese pieno di contraddizioni, che forse è anche una buona parte del fascino che l'Italia esercita anche su molti stranieri. È un paese che molti stranieri, mi ha detto, fanno abbastanza fatica a inquadrare. Tutti pensano di conoscerlo, ad esempio, quando arrivano per la prima volta in Italia, e se ci stanno un po' si accorgono che in realtà è molto diverso da quello che si immaginavano, in meglio, in peggio, sempre molto... I romani avevano trovato un dio per gli italiani, il dio della casa e della protezione, Giano Bifronte, a due volti, un volto grido e un volto che piange di guerra. Così era sempre buono per tutte le occasioni. Sì. Così sono gli italiani, insomma. Esatto. Nel bene e nel male. E la canzone che poi suonerai è proprio dedicata a Pasolini, è stata scritta da Francesco De Gregori, si intitola Apa, lo diciamo subito, e adesso cerco di leggere questa cosa di Pasolini. Ah, noi che viviamo in una sola generazione, ogni generazione vissuta qui, in queste terre, ora umiliate, non abbiamo nozione vera di chi è partecipe alla storia, solo per orale, magica esperienza, e vive puro, non oltre la memoria della generazione in cui presenza della vita è la sua vita perentoria. Non mi ricordo se c'era la luna e né che occhi aveva il ragazzo, ma mi ricordo quel sapore in gola e l'odore del mare come uno schiaffo. E c'era Roma così lontana, e c'era Roma così vicina, e quella luce che ti chiama come una stella matutina. Apa, apa, tutto passa e tutto va. E voglio vivere come i gigli nei campi, come gli uccelli del cielo campare. E voglio vivere come i gigli nei campi e sopra i gigli nei campi volare. Apa, apa, passa, il resto va. Apa, apa, tutto passa, il resto va. Non mi ricordo se c'era la luna e né che occhi aveva il ragazzo, ma mi ricordo quel sapore in gola e l'odore del mare come uno schiaffo. Adesso a parlare è un profugo libico, pochi mesi fa, all'inizio del 2011. Due donne sono morte poco dopo che siamo sbarcati a Tripoli dalle motovedette italiane. Erano sfinite come tanti altri. Ci hanno lasciati sulla banchina sotto il sole per ore e ore. E quelle due donne trascinate sulla banchina non ce l'hanno fatta. Altri due uomini sono in fin di vita. Aiutateci, veniteci a salvare, vi chiediamo di avere pietà. Ci sono altre donne e dei bambini, non lasciateci qui. La canzone è di Mario Rapisardi della fine dell'Ottocento, si intitola La falange dei mietitori. La falange siamo dei mietitori e facciamo le messi a lor signori. La falange siamo dei mietitori e facciamo le messi a lor signori. Venga il sol cocente, il sol di giugno, che arde il sangue e annerisce il grugno, arroventa la falce nel nostro pugno,

bellissima ballata questa di Mario Lapisardi, pensare che ha un secolo abbondante, intitolata La falange dei mietitori. E manca ancora una canzone per chiudere questa faticata per te, soprattutto faticata chiaramente. E, è un altro brano tradizionale romano del XIX secolo che si intitola La presa di Roma. Questa volta, per la fortuna degli ascoltatori, non sono io a introdurla, ma la voce di un'altra grande attrice, che è Lina Sastri, che questo brano si intitola O paese Pulcinella, e mi pare sia scritto da Edoardo. Quindi alla fine c'è anche la voce di Edoardo che parla della libertà. Ok, allora adesso ascoltiamo questa registrazione, uno dei più grandi autori di teatro italiani, dalla voce di Lina Sastri. Pulcinella, sapete che dice? Che paese significa mun. Sapo solo che è larga e che è tun. E non da ne parente né amici. Dice, o conto portatela a me. Pulcinella, sapete chi è? Perepe. Pulcinella è padrone del paese. Pulcinella fa tutto così. Pulcinella, se arriva nu fiss, che volesse, che sacce, fa spesa. Dice, o conto portatela a me. Pulcinella, sapete chi è? Perepe. Pulcinella, lo sapimmo che Atene tutte i vizi era rosa marina. E perciò che se scende da mattina, lo sapete, se andà lei, se trattene, dice, o quando portatela a me. Pulcinella, sapete chi è? Perepe. Pulcinella, addretto spurtiello e l'ufficio domanda e risposta, ti risponde, magari te costa, che per questo e per quello, dice, o quando portatela a me. Pulcinella, sapete chi è? Perepe. Pulcinella sta sempre stunata, poverella, non sa per non sente, ma si ha pure che la povera gente si ha mettuto un sordo a sti padri, dice, o quando portatela a me. Pulcinella, sapete chi è? Perepe. Pulcinella non tiene giudizio, non ci pensa che tra me scassata, si obbigliata la vita pavata, meno male, ma ha fatto servizio. Dice, o quando portatela a me. Pulcinella, sapete chi è? Perepe. Pulcinella ha segnato, ha guardato, rintovica di tale, sa da fare un lavoro stratale, sa da fa. Ma però si è fermato. Ricevo conto, portatela a me. Pulcinella, sapete chi è? Perepe. Pulcinella ti dice, firmate questa causa, l'abbiamo vinciuta. Si sicuro che già l'hai perduta. Ecco tutto che ha avuto ammazzato, dice, o conto, portatela a me. Pulcinella, sapete chi è? Perepe. Pulcinella, le piace nei carte, specialmente si sono segnate, che lì buono se te ne ha stipata. E soggetto te mette in descarte, dice, o conto portatela a me. Pulcinella, sapete chi è? Perepe. Pulcinella è spassosa, se spassa quando porta il cartello arretrato, sono imposte d'uscita ed entrata, però isse non va una tassa. Dice, o conto portatela a me. Pulcinella, sapete chi è? Perepe. Pulcinella fa mille mestiere. O barbiere, o stagnaro, o pittore, l'architetto, ingegnere, o dottore. Sapomo un ne rimane e da ieri dice, o quando portatela a me. Pulcinella, sapete chi è? Perepe. Pulcinella fa pure scrittura. E sa bacca cucchista e cucchilla. Che una penna e un cuore d'antilla. E si yoga a parole d'onore. Dice, o quando portatela a me. Pulcinella, sapete chi è? Perepe. Pulcinella è padrone paese, sa per vita, miracolo e morte, per pertoso, per senga, per porta, mette orecchia. E si squaglia all'inglese. Dice, o conto portatela a me. Pulcinella, sapete chi è? Perepe. Pulcinella se mena roliette quando traso vapore in doport, e non aveva né colpa né tort quando afferrò straniero per piette. Dice, o conto portatela a me. Pulcinella, sapete chi è? Perepe. No, maestà, voi potete impiccare un corpo, ma lo spirito di Pulcinella, che è l'anima di un popolo, rimane qua. E in ogni posto della terra i popoli vogliono essere liberi, felici, sazi. Mette scuorne fa sapere all'amici. Agli 16 anni ed ero all'armi, i briganti con i gendarmi. Alle 17 di Papalini, ebbero tutti di santi abitini. Alle 18 che stava alle strette, diedero a tutti le sante crocette. Alle 19 di Confessorno, e tutti quanti di Comunicorno. Era il 20 settembre del mese, suonava le 5 l'orologio francese e si sentiva da Porta Pia le cannonate che andavano via. E si sentiva un bombardamento che anche al buon Dio metteva spavento. Bombardamento a grossa mitraglia, pareva un campo di vera battaglia. Gesù, chi la madre pietosa e chi scappava all'acqua acetosa. Dopo scappato chi a destra e chi a manca, alzata fu la bandiera bianca. Dopo che furono a Sant'Agnese, allegri italiani che Roma è presa. Dopo che andorno a Porta Pia, li caccia lepre scapporno via. A San Pietro e al Vaticano c'è Nino Bixio che fa il guardiano. A San Pietro e al Vaticano mo c'è Cadorna che fa il guardiano. Hey! Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qui con questo brano, La presa di Roma, un pezzo tradizionale del XIX secolo. Valerio Billeri ha finito la sua faticata. Questa è una faticata, vi ricordo, è stato tutto live, senza montaggi, senza interruzioni, nessun altro trucco, diciamo. E ho anche mantenuto un ritmo abbastanza sostenuto perché mi pareva giusto non interrompere, sì, la sequenza che tu hai pensato, immagino, sì, a lungo. Così l'ho pensato a lungo e poi, essendo noi romani pigri, se tu ti fermavi io mi addormivo e perciò che devo, sui luoghi comuni, diciamo. C'è qualche domanda che volevo farti. Se riesci a parlare. Sì, vai. La prima è se le canzoni tue le hai scritte apposta per questo. No, erano vecchie canzoni. Poi, rileggendo i testi come Anime Perse, e ho letto la cosa del Garibaldino, il diario del Garibaldino, ho trovato delle cose in comune, il ponte, stranissime, allora ho pensato di farle. Era quasi che erano state scritte prima per oggi. Era un segno del destino. Segno del destino. Fosse. E, immagino che la scelta dei brani ti abbia preso parecchio tempo. Sì, un ampio canzoniere. Sì, vari CD, vari ascolti. Poi ho cambiato qualche accordo per renderle più moderne a qualche canzone, perché era quasi impossibile, anche qualche parola ogni tanto, perché ci sono le parole del 1800 che è difficilissima a dirle, insomma, tipo quella dell'inno, stringiamoci invece che stringiamoci. Sì. Perciò qualcosa l'ho cambiata, però ho tenuto fede al significato del brano originale. Diciamo piccoli accorgimenti, anche di accordi un po' più semplici. Sì. Quando è che hai avuto l'idea di fare questa cosa? Quanto tempo fa? Poco tempo fa. Per il centenario. 150 anni fa. Cioè. No, poco tempo fa. Ho visto, mi sarebbe piaciuto fare un concerto e andare in giro, però è molto difficile proporre questo tipo di musica per i locali con la gente che te mangia, che e perciò il posto adatto era una radio, cioè nel senso una persona dall'altra parte, l'ascolto era il massimo per una persona che sta a sentire la radio, perciò dall'altra parte il silenzio è il massimo, può concentrarsi sui testi. E perciò ho pensato di fare la radio, ho scelto Blu Radio Veneto perché da... Ti ringraziamo di questo grande onore che ci hai fatto, è stato veramente una grandissima emozione. Insomma, io faccio radio da un po' di tempo, non diciamo quanto, perché rivelerei la mia età che è segretissima. Sei un ragazzo, c'è ancora... Ecco, sì, esatto, sei talmente stanco che non ci vedi proprio. No, dicevo, in tanti anni insomma abbiamo avuto tanti ospiti, ma questa serata è stata una cosa... veramente unica, toccante, particolare, originale. Spero che i nostri ascoltatori abbiano avuto nell'ascoltarla lo stesso piacere che ho avuto io a esserne partecipe. Ti perdono anche appunto di avermi messo. Hai letto benissimo. Se leggevo io non si capiva niente. Tu hai letto benissimo. Io mangio le parole. È un'addizione di attore consumato. Non esageriamo. No, che okay, se facevi schifo lo dicevo. Giustamente, il bello dei romani è che appunto dite le cose come stanno. Io così. Prima di leggere così l'elenco delle canzoni, mi immaginavo che ci sarebbe stato un pezzo di De André. Ah, era troppo banale forse metterlo dentro. No, è che allora De André è diventato un mostro, è un mostro sacro anche per me, però è lo trovavo non banale, non trovavo un pezzo adatto per, volevo fare una storia, però ho scelto quella di Gregori, quella di una storia da dimenticare, quella che aveva scritto insieme a Francesco De Gregori, però ho preferito quella di De Gregori. De André lo sono quasi sempre dal vivo, perciò ho voluto fare delle cose che faccio di meno dal vivo, sempre. E ho scelto autori che di solito non faccio. Ah, perché... De André c'è sempre un pezzo in scaletta quando faccio i concerti, fisso, uno o due, Rimini e Fimo San Cric. Perciò stasera ho spostato il baricentro da un'altra parte. Scusate, se parlo un po', perché ho fatto tutta la strada in macchina, sono un po' stanco. Sei più che giustificato di essere stanco, figuriamoci. Magari nei diari di guerra avrei visto molto bene la guerra di Piero. Sì, forse. Sì. Però ho provato a farla adesso, io, la verità. Ho provato a cambiare gli accordi, però ho detto qui mi menano. Già così mi menano pure. De André, perciò. Comunque io penso che De Gregori, Iannacci, Eugenio Bennato saranno. E quella è una storia strana di quel pezzo, perché quello là, Briganti se muore, non si capisce se sia un tradizionale o essere scritto da Bennato, perché Bennato rivendica che l'ha scritta lui, mentre la gente del posto dice che è un tradizionale della Basilicata, però con dei testi delle parti del testo cambiate. Per esempio sul testo qui c'è scritto non ce ne fotte di Re Borbone, Bennato dice, mentre nella versione originale dice noi combattemmo per Re Borbone, perché i briganti erano di solito soldati abbastanza. E io infatti volevo dire noi combattiamo, però mi sono sbagliato, ho detto non ce l'ho perché ho lento. Però cambia molto il senso della canzone, perché riporta a quel periodo storico che i briganti erano la soldataglia scappata nei campi del coso, perché a guerra persa e poi per vivere insomma si sono arrangiati la famosa. Sì. Anche perché il regno di Sicilia è un regno ricco prima della venuta di Savoia, insomma qui ci sarebbe da parlare. Sì, beh, sei appassionato di storia. Loro ancora rivendicano il fatto che vogliono stare con i Borboni. Al sud molte persone... Sì, mi è capitato di conoscerne, in effetti. Beh, qui c'è qualcuno che vorrebbe stare con gli austriaci, per cui, sì, insomma, ogni regione c'ha i suoi, ecco. Lasciamo. Inutile andare a rivangare un passato che chiaramente... Solo noi siamo stati fermi, dove stavamo? Ma eravate caput mundi fin è, da, è terribile da perché epoche il lontane. Fatto quando Garibaldi entrò a Roma, che la prima la Repubblica, lui disse, si affacciò al balcone del campionato, disse romani siete seri, perché i romani non riuscivano a sostare neanche quel momento. Questa è storia? È storia, romani siete seri, disse dal balcone, perché i romani stavano proprio... Questa infatti sul brano tradizionale, questo qua romano, che non mi ricordo dove ho messo, aspetta, ecco qua, la presa di Roma, se tu noti nel testo cioè, a San Pietro del Vaticano c'è Nino Bixio che fa il guardiano, è un po' uno sminuì quello che avevano fatto, perché vabbè, sì, Nino Bixio che può fare a Roma il guardiano al Vaticano, non può fare più di tanto. Si suona qui... molto come custode. Sì, insomma, è terribile. Che apre la porta e che chiude la sera. Tutti lo immagino come un canto rivoluzionario, invece in verità rispecchia l'indole dei romani. La porta via fu una scaramuccia, in verità. Sì, beh, ci furono un po' di morti. Abbiamo aperto subito, abbiamo visto che sparavano, abbiamo aperto le porte. Che stiamo a fare? Che se dobbiamo sparare a entrate? Sì, non è certo confrontabile con le grandi battaglie del Risorgimento, in cui ci furono purtroppo. No, noi abbiamo aperto subito le porte, fate come vi pare. Perché... una cosa più simbolica che altro, sì, diciamo, sì, per dimostrare la resistenza. Comunque, direi che è bello, insomma, che... No, a parte scherzi, ci furono anche rivoluzionari. Ciceo Racchio, che abbiamo letto prima, che Manfredi faceva la parte sua nel film Il Nome del Popolo Sovrano. Pure i romani hanno combattuto, pochi però. Sì, sì, beh, nessuno lo nega. Devo dire che tu hai avuto un'idea veramente molto bella di fare questa cosa, anche perché ci devi cogliere l'occasione quest'anno, perché poi ci vuole un po' prima che capiti di nuovo. Non mi capita più, perché 200 anni avrei sui 80-90 anni, non penso che... Beh, va bene, insomma, dai. Tu ancora stai qua, perché no. Diciamo che non lo prometto, ecco. Bene, io ho avuto anche il coraggio, mentre eravamo in un attimo di pausa, di chiedere a Valerio di suonarci un'ultima canzone per chiudere, nonostante che sia molto stanco, ma sinceramente una trasmissione come questa non riesco a immaginare di chiuderla in altra maniera che non con la tua voce e una tua canzone. Prima che tu ci canti questa canzone, che magari adesso ce la presenterai anche, volevo ringraziarti veramente dal profondo del cuore, a nome mio, a nome del nostro tecnico Agostino e di tutto lo staff qua. Grazie, di Blu Radio Veneto, perché è stato veramente un grande piacere per noi averti qui questa sera. Grazie, questa è Nessuno, è dedicata a tutte le persone che cercano la fortuna in una terra migliore da dove sono nati. La terra promessa, insomma. Valerio Billeri a Blu Radio Veneto, Rockwave. Buonanotte a tutti da Stefano Dainese, grazie. Questa terra meravigliosa, terra di sassi e fantasmi, dove l'uomo lavora il suo spirito per bruciarlo dopo un migliaio d'anni. Qui un re seppellì 30 soldi d'oro in un pozzo così tanto profondo da toccare con il lancio forte di un sasso tutte le vene del mondo. E sono sceso giù all'inferno a toccare il fondo che è del fango. Il mio nome è Nessuno e dal mare io vengo. Partiremo oggi stesso, amore, andremo verso l'Eldorado, saremo via già all'alba perché è alto il prezzo che io ho pagato per varcare quel confine che è tracciato nella calda corrente d'acqua. Ti stringerò a me perché ne hai bisogno, mia dolce innamorata. E sono sceso giù all'inferno a toccare il fondo che è del fango. Il mio nome è Nessuno e dal mare io vengo. E sono sceso in basso senza lavoro, né pace né amore, giù al pozzo d'oro. Il mio nome è Nessuno e io vengo dal fuoco. Nell'oscurità fredda della notte, a luci spente per non farci vedere, dai guardacosta che danno la caccia alle barche alla deriva. Noi saltiremo appena sotto la roccia, noi dormiremo bagnati all'aperto, protetti dallo sguardo di Dio sotto un cielo color cobalto. E sono sceso giù